Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Assange, attesa la decisione di asilo dell'Ecuador, ambasciata sotto assedio a Londra, tafferugli, arresti. Operai Ilva di nuovo in piazza, domani toccherà agli ambientalisti. Siria isolata dai paesi arabi, Damasco sospesa dall'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Siena aspetta il suo palio, ma è serrata degli albergatori e un commissario guida la città. Dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. L'annuncio dovrebbe arrivare tra un'ora alle 14, ma l'ambasciata dell'Ecuador a Londra è guardata a vista da questa mattina dalla polizia britannica. All'interno da due mesi vive Julian Assange, per il quale la giustizia inglese ha deciso l'estradizione in Svezia. La tensione in questi minuti è altissima, allora sentiamo che succede. Andrea Viali. Sì, è così, è un vero e proprio braccio di ferro diplomatico quello in corso in queste ore fra Gran Bretagna ed Ecuador su Julian Assange. Da due mesi, dicevi, il fondatore del sito Wikileaks è rifugiato nell'ambasciata ecuadoregna a Londra, ha chiesto asilo politico e una decisione attesa fra un'ora. La Gran Bretagna ha fatto però sapere poco fa che non gli consentirà di lasciare il paese. Londra avrebbe anche minacciato un raid nella sede diplomatica per catturarlo. All'esterno dell'ambasciata in questi minuti è ancora in corso una manifestazione a suo favore, ci sono stati anche tafferugli e qualche fermo. Su Assange, lo ricordiamo, pende una richiesta di estradizione in Svezia, dove è accusato di violenza sessuale. Lui si proclama innocente, ma il suo vero timore in realtà è che la Svezia possa poi estradarlo a sua volta negli Stati Uniti, dove in teoria potrebbe anche essere condannato a morte per aver diffuso sul suo sito, ripetiamo, Wikileaks, documenti riservati del Dipartimento di Stato americano. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali, che ritroveremo naturalmente nelle prossime edizioni. Restiamo intanto all'estero con il mondo arabo che isola la Siria. L'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che riunisce 57 paesi arabi, all'indomani del rapporto ONU che accusa di crimini contro l'umanità sia il regime sia i ribelli, ha deciso infatti di sospendere Damasco. Il commento di Valentina Colombo, docente all'Università Europea di Roma. È un segnale, sono un segnale le parole del segretario generale dell'organizzazione, il turco Exanoglu, che dicono appunto che si tratta di un messaggio alla comunità internazionale, che la comunità islamica è a favore di una soluzione politica pacifica e non vuole più spargimento di sangue. Dopo il fallimento dei tentativi della Lega Araba, diciamo di quello che è la compagine araba, un messaggio che viene dalla Mecca alla fine del mese di Ramadan dal mondo islamico è di sicuro un segnale da tenere ben presente. Non dimentichiamoci che in seno a questa conferenza, in seno alla dichiarazione, al documento della Mecca che è stato pubblicato ieri, c'è anche una dichiarazione che invita al dialogo tra le sette islamiche, quindi anche tra sunniti e soprattutto tra sunniti e sciiti, che sono due forze in gioco in Siria. Per cui credo che questo sia un segnale ben preciso alla comunità internazionale. E una telefonata anonima al controllo aereo ha fatto scattare questa mattina l'allarme su un volo dell'Aeroflot da New York a Mosca, fatto atterrare per controlli in Islanda. La telefonata annunciava la presenza di 5 borse piene di esplosivo, pronte a saltare in aria all'arrivo nella capitale russa. Veniamo in Italia, hanno sfilato per le vie di una di Taranto tra la tensione stamattina gli operai dell'Ilva di CISL e UIL, non la FIOM. Nuova manifestazione in attesa domani dell'arrivo dei ministri Clini e Passera e di un'altra manifestazione indetta invece dai comitati cittadini. Per domani il timore è di nuovi scontri, si lavora per abbassare la tensione in queste ore. Cosimo Panarelli, segretario della FIM CISL di Taranto, al microfono di Domenico Palmiotti. Questo noi ce lo auguriamo con la venuta dei tre ministri domani, che il tutto, come dire, si metta nella strada giusta, che tenga conto delle ragioni del lavoro, le ragioni della salute e quelle dell'ambiente. Com'è che i sindacati sono divisi su un tema così importante? La FIOM non ha aderito allo sciopero che invece è promosso da FIM, CISL e UIL. Noi diciamo che questo giro di mobilitazione li avevamo deciso unitariamente già il giorno 23 di luglio. Insieme, nel momento in cui il 27 abbiamo fatto la manifestazione unitaria insieme rispetto alle stesse ragioni in cui siamo oggi qui in piazza, non capiamo come mai la FIOM ha deciso all'ultimo momento, come dire, di tirarsi fuori. ci addebita una responsabilità che non è nostra, che è quella lì, che le manifestazioni sono contro la procura, contro la magistratura, assolutamente no, noi stiamo qui per la paura di perdere il posto di lavoro e sapendo che bisogna tenere insieme le cose che dicevo prima, lavoro, ambiente e salute. Ed è l'occasione per fare il punto anche su un'altra vicenda. Oggi a Monfalcone è stata avalata la Royal Princess, che esce dagli stabilimenti della Fincantieri. Un momento importante per l'azienda in un mercato ancora difficile, con alle spalle l'accordo chiuso a fine 2011 sulla riorganizzazione. L'amministratore delegato Giuseppe Bono. Il varo di Ermes è una cosa importante, perché intanto è il varo della nave più grande mai costruita in Italia, perché è una 141.000 tonnellate, un traguardo tecnologico di altissimo livello. Per quanto riguarda la situazione della caratteristica, permane la crisi come in tutti i settori. Quest'anno pensi che finora sul mercato ci sono state soltanto due navi da crociera extra lusso, che ha preso la Fincantieri, le Viking, e un traghetto innovativo con una propulsione nuova che ha preso anche la Fincantieri per lo stato del Quebec in Canada. Ecco, questa è la situazione. Cioè, noi oggi siamo in una crisi profondissima, però con un'azienda che riesce a prendere tutto quello che il mercato presenta. Supportata comunque da una semestrale che ha dato dei numeri positivi. Noi i compiti a casa, come si dice oggi, è una frase abbastanza usuale, l'abbiamo fatti prima. Abbiamo cominciato nel 2008, nel 2009, nel 2010, quando abbiamo visto che la crisi stava esplodendo, abbiamo cominciato a preparare un piano industriale di adeguamento della capacità produttiva alla nuova domanda, e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare con una battaglia sociale che non è stata indolore. Si attesta al 2,4% l'inflazione dell'Eurozona a luglio, mentre il tasso è pari al 2,5% per l'insieme dell'Unione Europea a 27 ed è al 3,6% per l'Italia. Il tasso calcolato da Eurostat è negativo su base mensile, meno 0,5%. Questo mentre Berlino gela Atene. Effetto Ferragosto ancora in corso, listini cauti in questi giorni sono lenti, differenziale tutto sommato sotto controllo che oscilla tra i 420 e i 430 punti. Le soffiate del Financial Times non hanno acceso troppo gli animi e nemmeno il botta e risposta tutto virtuale che ne è scaturito. Se la Grecia chiederà una dilazione di 2 anni per il piano di austerità, lo si saprà solo la prossima settimana, quando il premier Samaras sbarcherà nelle cancellerie europee. In ogni caso la risposta di Angela è già nota. La cancelliera considera valido l'accordo sottoscritto da Atene mesi fa. Punto. Il fatto è che alla revisione di settembre il paese ellenico potrebbe, diciamo così, non essere in regola con la tabella di marcia. Poi c'è la Spagna. Madrid, fonte Bloomberg, starebbe per ricevere un aiuto di emergenza per le proprie banche, dopo che la BCE ha stretto un po' le maglie dei collaterali dati in garanzia per ottenere prestiti. A rinforzare un quadro già fosco ci ha pensato oggi il Wall Street Journal Online, che titola «Le banche europee alle prese con una montagna di debiti a rischio. Se la situazione dovesse precipitare, queste banche saranno costrette a vendere asset, le famose buone occasioni tanto attese dai fondi speculativi, che sorvolano l'Europa aspettando il momento giusto per colpire. Ma oggi no, per oggi godiamoci ancora il sole e i listini poco mossi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fa discutere l'annuncio ieri del ministro Cancellieri di nuovi tagli in arrivo per la sicurezza, nessuna intenzione invece dal governo di tagliare le festività, almeno pare. La questione è delicata, tant'è che il governo lo scorso 20 luglio ufficializzò il dietro front con un comunicato. Nessun accorpamento delle festività alla domenica, recitava la nota di Palazzo Chigi, perché la misura non dà sufficienti garanzie di risparmio. E ora è lo stesso ministro del turismo, Piero Gnudi, a tranquillizzare. L'ipotesi è accantonata e per sempre. Si tratta di un tema, aggiunge il ministro, che va a toccare sensibilità molto profonde nel paese. Dunque il capitolo è chiuso. Il governo va invece avanti e spedito sulla spending review. E sforbiciate da questo punto di vista non mancheranno. Anche il Viminale farà la sua parte, come ha spiegato il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, con tagli mirati al comparto sicurezza e razionalizzazione del sistema delle scorte. D'accordo su questo anche il vicepresidente della Commissione Antimafia, Fabio Granata. Un monitoraggio sui sistemi di tutela certamente va fatto, separando in maniera adeguata e sapiente le scorte che sono diventate, come dire, in alcuni casi un orpello e uno spreco, da quelle che sono essenziali per garantire la sicurezza di alcune personalità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Saltato per la prima volta il tradizionale comizio di Ferragosto a Ponte di Legno per le polemiche, Umberto Bossi ha parlato ieri sera invece da Pontida. Monti, candidato nel 2013, non prenderebbe un voto, ha attaccato il Senatur. Poi a Maroni, che ipotizza un referendum sull'euro, ha risposto: tutti i referendum sono utili, ma l'Europa è fallita. La Lega ha aggiunto, lo disse, che l'euro non avrebbe continuato. Tutti parlano di voler salvare l'euro, ma nessuno ci mette i soldi. Quindi va a picco, non c'è il complotto. C'è che i paesi che stanno alla base dell'Europa e dell'euro sono pieni di debiti e quindi ha scaricato sull'euro tutti i loro debiti. Secondo me la soluzione è l'Europa delle regioni, che già fin dall'inizio la volevano. È di nuovo allarme per le bolle di sapone tossiche. Dopo il maxi sequestro di luglio alla Spezia, il caso di due bambini finiti in ospedale dopo aver giocato con una pistola sparabolle prodotta in Cina, è la volta di una bambina di 5 anni a Torino. Un'altra pistola sparabolle assemblata in Cina ma prodotta da una multinazionale danese avrebbe provocato un'infezione con febbre alta. Ad indagare ora il procuratore Raffaele Guariniello. È il 16 agosto e allora andiamo a Siena perché questa sera si attende il tradizionale palio. Un palio tranquillo come non mai, ma forse solo l'apparenza. Per Siena si avvicina l'epilogo del secondo momento annuale di estasi collettiva, dopo una vigilia regolare come poche. Cavalli mansueti nelle prove di addestramento, contrade tranquille, un solo brivido, ieri sera per un carabiniere volato giù dal suo cavallo al momento di uscire dalla piazza. Eppure il botto potrebbe essere dietro l'angolo in attesa del tramonto di stasera, e sono le statistiche a suggerirlo. C'è una contrada, l'onda, che punta al cappotto, ovvero a ripetersi dopo il successo dello scorso 2 luglio. Negli ultimi 100 anni è successo solo 2 volte e c'è un fantino, Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, che può raggiungere stasera il record del mitico Aceto, ovvero le 14 vittorie personali. Comunque vada, sarà un palio atipico per Siena, città priva di sindaco dallo scorso maggio, costretta a consegnare le redini del proprio gioco a un commissario straordinario, Enrico Laudanna. Quello che aspetta tutti noi è che ci godiamo quello che man mano ci presentano le opportunità. E intanto nel giorno del palio ci sono anche dipendenti di hotel in sciopero per protestare contro la minaccia di tagli, segno di tempi atipici che preoccupano molti anche a Siena nel momento della sua festa. Tra le eccezioni il mossiere Bartolo Ambrosioni, già in servizio anni addietro, richiamato pochi giorni fa in servizio a furor di contrade. Sereno e rilassato relativamente, perché il compito è comunque importante, felice e sicuro al 100%. Massimo Sollazzini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Siena. È in arrivo la settima ondata di caldo di quest'estate 2012, la peggiore di tutti, dicono i meteorologi, e l'anticiclone colosso dei deserti che proviene dall'entroterra marocchino, ma abbraccerà moltissimi paesi europei. L'aria calda raggiungerà anche la Lapponia. Temperature record previste in Francia e Spagna, in Italia tra il 18 e il 21 agosto si raggiungeranno picchi di 40 gradi. Notte in ospedale in Scozia per il principe Filippo, ricoverato ieri per motivi precauzionali in seguito ad un'infezione urinaria. Il ricovero è il terzo da Natale, ha rinnovato i timori di salute per il 91enne marito della regina Elisabetta. Il calcio ora, l'Italia dei giovani si piega all'Inghilterra, sconfitta ieri sera l'Italia di Cesare Prandelli in amichevole a Berna 2-1, e allora sentiamo proprio il CT. Sono contento perché abbiamo, come dicevamo prima, abbiamo trovato più che alternative, perché era una partita non era semplice, perché era una squadra che insomma non ha nessun minutaggio per avere un riferimento da un punto di vista del gioco. A me interessava proprio vedere quello, più i singoli, e i singoli ho avuto delle buone risposte. Poi magari certi sono già pronti, certi magari hanno poco per essere pronti, devono soltanto avere una continuità di lavoro durante il campionato, più presenze ovviamente, però io sono soddisfatto perché abbiamo più alternative. Roberto Scaltritti in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata, GR24 vi aspetta alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.